Liberi Dentro e Duradio, il programma di intrattenimento e cultura che fa ponte tra carcere e città. Andrea si è perso, si è perso, si è perso e non sa tornare. Lunedì 12 aprile, buongiorno e bentornati di nuovo a tutte e tutti su Liberi Dentro e Duradio, ora in onda su Radio Città Fujiko e alle 10.30 su Teletricolore. Non sono mai sola perché ci siamo tutti da luoghi diversi, io da Bologna e davanti a me c'è Marco Santarelli, regista cinematografico, ospite per tutta la settimana con noi da Roma. Ciao, buongiorno. Buongiorno Caterina. E Ignazio De Francesco da Montesole. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi e buongiorno a tutte e a tutti, quelli che ci ascoltano dal carcere e dalla città. Allora, dovete sapere che oggi, dato che io vi faccio sempre un po' da redattore sociale delle nostre notizie nazionali, oggi vi riporto una notizia sul quotidiano Domani, leggere il carcere da dentro per imparare a conoscerlo, a firma di Fabiano Massimi. Perché se un anno fa si era parlato davvero tanto di carcere, a partire da quella notizia tragica delle rivolte carcerarie dovute alla pandemia che hanno portato anche a tanti morti purtroppo, una cosa è tornata come prima. Se tante cose sono cambiate dopo questo anno terrificante, è questa, l'ignoranza generale su cosa sia e come funzioni il carcere in Italia. Perché, scrive il giornalista, un'idea approssimativa ce la possiamo fare attraverso le cifre. Sono 60.000 i detenuti in Italia, praticamente come la popolazione di Viareggio, dice lui, una capienza ufficiale di 47.000 che si traduce in celle stipate all'inverosimile, e il 70% degli scarcerati torna dietro le sbarre dopo poco tempo, la famosa recidiva, un terzo dei detenuti è straniero, un quarto sono tossicodipendenti e purtroppo decine di bambini rinchiusi fino ai 6 anni. E quindi questi numeri quante volte tornano, eppure c'è un'ignoranza su questi fatti. E il carcere è così lontano dall'esperienza della stragrande maggioranza dei cittadini da venire continuamente dimenticato, ed ecco perché il primo passo, scrive il giornalista, è incominciare a conoscerlo, e lui lo fa passando in disamina una serie di libri scritti quest'anno sul carcere, tutti molto molto belli, quindi vi rinvio a questo articolo sul Domani. E poi scrive una cosa molto bella, una realtà importante da ricordarsi, che lo scopo della pena non sia mai il penare, ma riformarsi, possibilmente imparando un mestiere. Quindi ricorda anche tutti i carcerati che il mestiere non ce l'hanno, e quindi fa un appello al fatto che anche la recidiva si riduce se implementiamo le possibilità dei detenuti a accedere a un lavoro. Quindi io invece adesso rimando a te, a Ignazio, sempre a partire dalle piccole cose, i piccoli numeri, perché c'è un ingrediente, una spezia in cucina che si chiama anice, che però ci aiuta a conoscere un mondo particolare che è quello della cultura egiziana, vero? Esatto, e direi, ne approfitto per dire che tutta questa settimana da parte mia, che è anche l'ultima settimana in cui io conduco insieme a te, prima di passare il testimone ad Antonella Cortese, sarà dedicata un po' all'Egitto, musica, Galateo e tutto quanto, per dire che l'Egitto è nel nostro cuore, l'Egitto è la primavera araba, come l'abbiamo vissuta in tanti, esattamente 10 anni fa. Quindi scrive Aziza Sami sulle pagine di cultura di Al-Ahram, grande giornale egiziano, su tutte le proprietà benefiche dell'anice: si fanno gli infusi, serve per i bronchi durante l'inverno, si riescono a curare tante cose. Ma quello che mi colpisce è il punto in cui dice che l'anice è stata trovata negli scavi delle tombe di Tebe che risalgono a 4.000 anni fa. Inoltre sono stati trovati dei papiri egiziani che raccomandano l'uso dell'anice per i suoi effetti antinfiammatori e contro le convulsioni. E quindi noi scopriamo, quando parliamo di civiltà, adesso l'Egitto in gran parte è fatto da musulmani, poi ci sono i cristiani, una decina di milioni, quindi pensiamo cristiani 2000 anni fa, musulmani da 1400 anni fa, ma l'anice, che è fondamentale nella dieta egiziana in tante cose, risale al tempo dei faraoni. E quindi un modo per fare mosaico. Grazie Ignazio, ed è il momento adesso di lanciare un brano musicale che, come tu mi insegni, siccome dedichiamo tutta la settimana all'Egitto, cosa potremmo lanciare? Allora, abbiamo la prima voce, Mohammed Ramadan Mahmoud Hijazi, conosciuto meglio come Mohammed Ramadan, che è un cantante, un attore, un rapper, un danzatore, un produttore egiziano, che ci canta Aladdin Lamp. La lampada di Aladino. كان رؤيا مش كابوس والناس الطيبين واقفين مستجدعين هما ودعوة أمي مصباح علاء الدين من تحت السفر بدأت سبقت طلعت طفيت النجوم أعدائي يكتروا يختفوا يظهروا ما فرقش معايا الهجوم لما أنا مش فارق معاك والناس كلها وياك اسأل عيلتك تقول لك بنشوفه من ورا. E rieccoci, bentornati sulle note musicali di questo primo brano della settimana, sempre dalla cultura egiziana. Siamo con Galateo Arabo, sempre su Liberi Dentro Eduradio. E Ignazio, Galateo Arabo questa settimana è dedicato alle costituzioni, alla costituzione egiziana in particolare, perché anche questa entra a far parte, come dico sempre, del DNA dei nostri valori comuni. E oggi parliamo del bene e della solidarietà. Certo, le costituzioni sono il Galateo messo su carta e trasformato in legge, che poi è un indirizzo per la vita. Allora sentite che bella questo articolo 8 della Costituzione dell'Egitto, quella lì della primavera, Costituzione del 2014. Yakum il mujtama ala tadamun al-ijtimai, cioè si fonda la società sulla solidarietà sociale. E qua c'è una parola stupenda, non mi posso allargare perché il tempo corre, che tadamun, che vuol dire solidarietà in araba, che viene dal famoso verbo damina, una forma, la sesta, che vuol dire proteggere, includere. Quindi io proteggo te e tu proteggi me, ma non nel modo mafioso, ecco, quindi ci proteggiamo e contro la legge, ma ci proteggiamo secondo la legge, ci custodiamo a vicenda. Grazie Ignazio, e allora ne approfitto per dare invece la parola al nostro ospite per tutta la settimana su Liberi Dentro, Marco Santarelli, che ho presentato in apertura di puntata. Tu Marco, in realtà ci conosciamo tutti sempre, perché ciò che ci accomuna è sempre stato poi il carcere della Dozza, e anche tu sei entrato per la prima volta al carcere della Dozza con Mille e una notte, un viaggio nel penitenziario di Dozza del 2012, un documentario che è stato costruito partendo dal percorso delle domandine dei detenuti e che piano piano entra poi nelle storie personali, no? Sì, sì. Mille e una notte è il mio primo documentario a Bologna in carcere. Io prima avevo girato un documentario in Puglia in una scuola media ed è il secondo step di un viaggio, no? Dentro quello che è il mondo delle istituzioni, raccontare le istituzioni dal di dentro e vedere come si interfacciano i cittadini, nel caso del carcere a cittadini reclusi, no? E quindi ecco, Mille e una notte ha rappresentato, è un film di, per me molto importante, perché mi ha permesso di raccontare da un'altra angolazione proprio l'istituzione, no? E per raccontare l'istituzione, ovvero le relazioni all'interno del carcere tra detenuti, agenti, all'interno poi dei vari uffici, ho seguito il percorso delle domandine. È stato quello che mi ha portato poi a incontrare i detenuti, a registrare, a filmare le loro storie, seguendo diversi incontri che i mediatori culturali facevano nell'arco delle giornate ai diversi piani del carcere. E, chiaramente, diciamo, nel documentario c'è una prima parte centrata soprattutto sulle domandine, le richieste dei detenuti stranieri, in particolare del braccio marocchino. E poi a un certo punto, come spesso accade nel documentario, nei documentari che mi piacciono, è sopraggiunta una storia che non avevo calcolato e che è diventato un po' la seconda parte del film. Quindi mi sono spostato dalla sezione maschile alla sezione femminile, ho seguito la storia di una donna che nei giorni in cui, nelle settimane in cui giravo il documentario, avevo ottenuto un permesso per tornare a casa. Quindi il documentario nella seconda parte si apre, racconto la vita di questa donna fuori dal carcere e si chiude il lavoro, il documentario, con il suo rientro in carcere. Quindi diciamo è un documentario che riflette molto il tempo del carcere, le storie, le vite del carcere, ma allo stesso tempo un documentario che si apre all'esterno, no? Cercando di raccontare la vita di una detenuta, insomma, un permesso. Questo grazie. È bello, molto. E giusto in pochi secondi, siccome abbiamo detto proprio dell'ignoranza in generale, no, sul carcere, sì, da parte delle persone, che risultato ha avuto la visione esterna di questo documentario, se ce lo puoi raccontare in breve? Sì, insomma, il documentario è stato accolto, è andato molto bene. La cosa che ha colpito tutti, la cosa che colpisce tutti è questa cosa per cui i detenuti non possono chiamare liberamente, no? Che tutti danno per scontato che questa sia, insomma, abbiano la possibilità di chiamare quando voglio, e non è così. Loro devono, anche lì per fare una telefonata, devono inoltrare alla direzione una domandina e poi hanno il loro giorno, la loro ora, il loro tempo per chiamare. Quindi ecco, questo è sicuramente, ecco, il tema delle domandine è il tema che ha più affascinato poi chi ha visto il documentario. Grazie, e adesso hai l'onore di lanciare tu il primo brano internazionale musicale di oggi. Bene, il primo brano è Identity di X-Ray Specs, e buon ascolto. Grazie. Ben ritrovati a tutti su Liberi Dentro, i nostri ascoltatori tra la città e il carcere. Oggi abbiamo con noi, su questa rubrica in collaborazione con ASP Bologna, un'altra ospite molto prestigiosa, veramente per noi, grazie per essere qui. Per noi che facciamo informazione tra la città e il carcere, per l'appunto, che a noi piace considerare un po' il quartiere, un quartiere della nostra città. La dottoressa Claudia Clementi, buongiorno, benvenuta. Buongiorno, buongiorno a tutti, grazie per l'invito. Che dopo una carriera veramente ricca e movimentata, iniziata ad Asti, proseguita ad Alessandria, poi Torino e Pesaro, finalmente nel 2013 sei arrivata nella nostra città di Bologna, al carcere, la casa circondariale Rocco D'Amato. Da donna a donna, perché sono diventate tante le donne in Italia da alcuni anni che dirigono le carceri. Stando ai dati del 2014, su 206 istituti, le direttrici in quota rosa sono 86. E che cosa l'ha portata a scegliere questa professione? Ma allora, intanto sul fatto che ci siano così tante donne, credo che i motivi siano tanti, un po' perché in genere molto spesso i concorsi pubblici sono particolarmente frequentati magari dalle donne. In realtà io quello che dico sempre è che forse questo lavoro, che pur così ad occhio profano sembrerebbe un po' più con connotazioni maschili, no? È un ambiente sicuramente prevalentemente ad impronta maschile, però in realtà poi questo lavoro ha delle caratteristiche che, senza voler generalizzare, perché a me non piacciono le generalizzazioni, però fa ritrovare alcuni tratti, diciamo, che si verificano a volte molto più spesso nelle donne. Questo è un lavoro fatto di organizzazione, perché è prevalentemente quello, ed è un'organizzazione, come si dice ora, multitasking, no? Quindi che affronta varie tematiche, vari settori, e su questo le donne sappiamo, insomma, no, che barcamenandosi sempre tra il lavoro, la famiglia e tutte le altre esigenze, insomma, hanno sviluppato un expertise molto nutrito. Poi è un lavoro fatto di relazioni interpersonali, di relazioni anche proprio umane, e anche su questo magari spesso le donne, insomma, sono per, ecco, anche proprio credo per tradizione culturale, sociale, storica, anche un po' più necessariamente portate. Quindi credo che, ecco, ci sia un po', ci siano delle caratteristiche che fanno sì che molto spesso le figure femminili al vertice degli istituti conoscano, insomma, una riuscita così apprezzabile, ecco. Quindi secondo me non è proprio soltanto un dato numerico, statistico, no? In questo momento ce ne sono tante, però insomma, ecco, non so, anche un po' le doti di mediazione a volte. Questo è un mondo composito, fatto di istanze spesso contrastanti. Allora una buona capacità di mediazione è molto preziosa, diciamo, in questo ambito. Allora, direttrice, io le faccio una domanda che non so, forse meriterebbe una trattazione molto ampia, però proviamo a chiedere perché siamo curiosi, visto che appunto questo mestiere, come abbiamo già anticipato adesso nella sua risposta, è un mestiere complesso, fatto di equilibri, di una capacità spiccata di mediazione, di una serie di elementi, no? Molto eterogenei che devono convivere in un'unica personalità. Io le chiedo cosa significa dirigere un carcere? E quali sono, secondo lei, le qualità principali di un buon direttore? Che domandona! Allora, dunque, in realtà, questo lavoro richiede tante competenze, basta, semplicemente vedere un po' quali sono sia le materie, ad esempio, del concorso con il quale si accede, sia i profili, diciamo, di studio attraverso i quali si accede, che sono molteplici, no? Non sono previste soltanto lauree di alcuni settori piuttosto che di altri. Quindi è un lavoro che richiede una preparazione veramente ad ampio spettro, perché un direttore si occupa di tantissime cose, che spesso sembrerebbero anche non conciliabili fra di loro, perché comunque un direttore gestisce il personale e gestisce i detenuti, si occupa di far sì che la struttura e quindi le manutenzioni siano effettuate, mantiene i rapporti con la magistratura. Cioè, in realtà sono richieste competenze veramente ad ampio spettro, giuridiche, più attinenti alle discipline umane, ma anche contabili, ad esempio. Cioè, il direttore di un istituto è funzionario delegato, quindi autorizza delle spese sostanzialmente e ne risponde, tra l'altro, ci tengo a precisarlo, non come direttore dell'istituto, ma a livello proprio personale, a livello individuale. Quindi è richiesta una preparazione molto ampia. Poi è ovvio che, diciamo, nessuno di noi ha Pico della Mirandola e quindi conosce tutto nel dettaglio. È ovvio che poi ci si affida ai propri collaboratori, a delle figure professionali più settoriali e più specifiche. Però in realtà, ecco, si deve un po', ecco, è un po' come se uno gestisce un condominio o un comune, o comunque una comunità che ha tante esigenze di carattere più quotidiano, più materiale, e invece di, come dire, di bisogni magari più individuali o personali. Ecco, quindi in realtà poi non so quali siano le qualità più adatte, sicuramente una grande elasticità, un saper passare magari da un momento all'altro dall'occuparsi, che ne so, dallo studio del fascicolo di un detenuto particolarmente complesso al, che ne so, all'addetto alla manutenzione che arriva e ti dice: non funzionano i riscaldamenti, che facciamo? Ecco, quindi bisogna un po' adattarsi, diciamo, proprio perché poi ovviamente. Insomma, Bologna è un istituto di dimensioni, insomma, consistenti, quindi è ovvio che, diciamo, le sollecitazioni, no, sulle decisioni da prendere, sono costanti, sono molteplici. Ecco, un'altra cosa che sicuramente bisogna avere è non aver paura di prendere decisioni, perché in realtà noi prendiamo decisioni in ogni momento. E tra l'altro l'organizzazione, diciamo, proprio amministrativa dell'istituto penitenziario è tale per cui comunque al vertice, cioè la figura di vertice, è comunque il direttore. Quindi se non c'è quella sigla, quella firma del direttore su ogni cosa, non è possibile andare avanti. Quindi bisogna assumersi di continuo delle responsabilità, e spesso non c'è il tempo di valutare proprio tutti i fattori, no? O tutti gli elementi o tutte le informazioni necessarie per prendere quella decisione in quel momento. Quindi ci vuole anche come dire, proprio una capacità di adattamento continuo, di ridefinizione continua rispetto ad una realtà che è una realtà costantemente mutevole e sempre in emergenza. Ecco. nostro intervento termina qui. Ci rivediamo presto con nuovi approfondimenti da chi vive per chi vive il carcere. Non dimenticatevi di scrivere a Liberi Dentro e Duradio sui social, Instagram e Facebook, se avete domande o richieste per le prossime puntate. Ciao a tutti. E anche oggi ci salutiamo dopo aver ascoltato le parole della dottoressa Claudia Clementi, la direttrice del carcere della Dozza di Bologna. Ci ridiamo appuntamento alle ore 17 con AVOC, Scrittura della Vita, e vi ringrazio tutti, vi ricordo di iscriverci, magari scriveteci cosa ne pensate delle parole che avete appena ascoltato e del programma Eduradio, se vi è piaciuto, se avete dei consigli. liberidentro.eduradio@gmail.com oppure Chiesa Santissima Annunziata via San Mammolo 2, 40, 136, Bologna. Grazie a Matteo Parisini, grazie a Ignazio De Francesco e grazie al nostro ospite in puntata, Marco Santarelli. A domani, sempre qui su Liberi Dentro.